Your headlights are on. Radio Onde Rosse 87.9 in modulazione di frequenza. Questa è prova tecnica di trasmissione. Anche per oggi 19 ottobre del 2022. Spazio qui a Radio Onde Rosse che andrà avanti sino alle 22.30 circa. Credo che 25 o'clock tornerà la prossima settimana ufficialmente. Your engine is on. Please. Ricordiamo naturalmente la nostra esigenza riguardante la sottoscrizione per questa emittente che ormai dal lontano 1977 è completamente autogestita e va avanti con le sottoscrizioni di chi li ascolta, di chi l'ascolta e di chi la vive, oltre alle varie iniziative nei centri sociali. Una ce n'è sabato alla SNIA, la Periror. Un'altra ce ne sarà il 18 novembre al Forte Prenestino con Ataraxia e Echoes of Silence in concerto e un DJ set del sottoscritto insieme ai Noctibus Panis, valente programma che va in onda ogni venerdì a partire dalle ore 21. Saluti a Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Doriani Anquel di Taranto, Trinity e Valerio Michetti della Grazia Obliqua, Maia in Sardegna al pari di Nicola Locci, il medico della peste Dario Arrighidi e del progetto No Name. Un saluto a Alberto Clipper, Anna qui a Roma. Cecilia Miradoli del progetto Pindar, il buon Marco Milanesio di Disordine e anche un nuovo progetto che presto ci ascolteremo, 909, presto su queste frequenze, Bruno Cossano. Di Radio Spazio Ivrea, Moschita dei Miramar ad Harlem, Olanda. Laura e Serena qui a Roma, Francesco Cornello, Mario Lino Stancati, con il quale cominceremo proprio questa puntata tra qualche secondo. Un saluto anche a Like Wake e a Giuseppe Verticchio, in arte NIM ed altri progetti. Allora, Mario Lino Stancati e il suo Vairagya, album registrato attraverso Nespless Sounds Group di Raffaele Pezzella. È il terzo passaggio che facciamo per lui e questa sera è il turno di Res Perditas Petunt e Cell del Power. Artista multimediale, questo Mario Nino Stancati. Alle prese con Vairagya, che ricordo ancora una volta, è un termine mutuato dal sanscrito, dall'hindi, vecchio linguaggio, e che vuol dire distacco. Album anche policromo, con tante soluzioni sonore, distanti anche tra di loro, ma assolutamente assemblate con perizia. C'è anche del kraut rock, anche dei ricordi vagamente jazz. Un saluto a Jean-Claude Aubertot, alle prese, ahimè, con qualche malanno fisico, lo abbracciamo. E saluto anche Carla qui a Roma, il buon Filippo Panichi in quel di Firenze, che guarda un po', chiamiamo subito in causa. Siamo andati a riprendere nella sua sviluppatissima discografia il primo lavoro del 2009, se non ricordo male. Si chiama Null ed è forse la fase, peraltro qui l'iniziale appunto, più elettronica per Filippo Panichi. E quindi ci ascoltiamo ESP, AC2. E anche un pezzettino della conclusiva Noise, parte numero 2. Come diceva il buon Nicola Locci, lui ha problemi di rete e guarda un po', ce l'abbiamo anche noi qui in radio, per cui Filippo Panichi al momento non va, e allora vediamo che carica il tutto il suo profilo Bandcamp, ma evidentemente c'è un po' di pigrizia nella rete e quindi abbiamo rimediato, e mi dispiace per Filippo Panichi, cercheremo di risolvere dopo magari. Come on. Abbiamo qui Nim di Giuseppe Verticchio, artista proveniente proprio qui dalla capitale. Questo è un lavoro di qualche annetto fa, si chiama Beyond the Crying Era. Questo è la movimentata Streets of Tehran, molto attuale. denso di suggestioni elettroniche e sperimentali, questo lavoro di NIM, Beyond the Crime Era, di Giuseppe Verticchio, che vado a salutare. Street of Tehran, anche il Tehran, anche l'Iran ha problemi, forti problemi di democrazia, soprattutto per quanto riguarda la questione femminile, ma non solo. Eclettico e multiforme Giuseppe Verticchio, che ci ascolteremo anche mercoledì prossimo. Facciamo un altro tentativo, appunto, con Filippo Panichi, con questo AC Number 2 da Null, questo suo vecchio lavoro. Riusciamo anche a sentirci, Noise Part Number 2, sempre Filippo Panichi. Allora, bene o male, siamo riusciti a sistemare un po' la questione qui alla rete della radio. Filippo Panichi da questo vecchio lavoro del 2009, anche se in realtà queste tracce sono state concepite qualche anno prima. Vado a salutare con molto affetto Lorenzo di Ad Raptus. Per chi non lo sapesse, Ad Raptus intorno alla metà degli anni 90 fu uno spazio che nobilitò ogni sabato sera qui a Radio Onda Rossa, un programma di techno e dintorni, di elettronica, di rave culture, come si diceva allora. Un programma che nacque, diciamo, inizialmente anche all'interno di prove tecniche di trasmissione, per poi produrre e ritagliarsi un ottimo spazio autonomo, appunto, il sabato sera. E quindi vado a salutare il buon Lorenzo. Saluto anche Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo, Unus Alin Industrial Piemontese e Paolo qui del settore Roma Est. Molti artisti italiani hanno caratterizzato l'inizio di questa prova tecnica e trasmissione di oggi, e già sta andando da qualche secondo Adriano Zanni sotto la mia voce, ennesimo ottimo esponente della scuola sperimentale dei nuovi costruttori di suoni provenienti dalle nostre parti. Questo è Racconti d'Osservazione e il brano omonimo. Tutto esce per la Dissipatio Records, label molto interessante proveniente dal Veneto. Bellissimo questo digipack proprio di racconti d'osservazione di Adriano Zanni in due belle, diciamo, fotografie in bianco e nero che compongono la copertina cartonata. Pensato e immaginato muovendosi ad agio tra Ravenna, Marina Romea e Borca Ticadore, molta nebbia e molta pianura padana, assemblato e realizzato tra il 2020 e 2021 con Adriano Zanni, dispositivi elettronici, campionamenti, field recording e fotografie per l'appunto, con la supervisione di Simon Balestrazio, grosso personaggio della scena elettronica e sperimentale. La Dissipatio non è veneta ma toscana, come ho letto meglio, di Nicola Quiriconi. Risaluto Jean-Claude Berthaud e gli auguro una buona guarigione. Saluto Orlando Furioso in quel del Piemonte. E noi si va avanti, 21:46, queste prove tecniche di trasmissione, naturalmente su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info, molto affollato anche questa sera e mi fa molto piacere. Finiamo per adesso la nostra analisi della scena italiana e andiamo in Israele dai Kashayov, emergente progetto non lontanissimo da queste atmosfere e che incide per la britannica Under My Feet. Potrete apprezzare le armonie, particolarissime di questo lavoro dal nome May Operation, e ci andiamo ad ascoltare Zuv e appunto May Hey Operation Number 3.